cosa sono questi rumori? Vedi che c'è Natalino, dice che ci sono rumori. Senti dei rumori, Natalino. Sto provando un panel più duro a tavolo, connessione Kenwood, che mi ha dato Gianfranco. Nuovo, nuovo. Che rumori senti, Natalino? Che rumori strani ci sono quando parli, non si capisce quello che dici. Rumori strani, rumori strani. Perché stai innescando, stai innescando, stai innescando. Allora abbassiamo ancora, 1, 2, 3, 4. Ah, queste scariche stai dicendo tu, queste che ci sono. Vabbè, dai, lo mettiamo a posto, dai, ne do una pulitina dentro, ok? Così è senza processore. Quindi senza processore? Mamma mia, quanto è ferga. Senza processore è brutta, eh? E c'ha solo tonalità basse. Eh sì, così è senza processore. Guarda, così invece è col processore inserito, un'altra cosa, dai. È un po' più metallica, però... vabbè. La lasciamo così, dai. Sto facendo delle prove, cazzo, non ho un connettore che vada bene qua. Ce l'ho al contrario, capito? Ce l'ho al contrario. Porca miseria. Se no, non posso provarlo sul baracchino, capito? Non posso provarlo sul K, cioè sul baracchino. Devo provare per forza qua. Ora, 1, 2, 3, 4, 5. Ecco qua. Non posso fare altre prove, Angeli. Per forza qua devo provare. Aspetti, mando la foto, dai. Ehi, è nuovo, eh. Me l'ha regalato Gianfranco. È nuovo. Ce ne sono pochi in circolazione. Questo è originale, celeste, tutto celeste, anche il cavo celeste, con tutte le sue scritte, Turner, più 2, dove c'è la caps, dove c'è il PTT, SSB, più 2, transceiver, la rotellina nuova, minimo, massimo, sì, da 0 a 20, non da 0 a 10, addirittura da 0 a 20. Va bene, adesso ti mando la foto, vai. Aprilo e guardalo bene, guarda quanto è nuovo. È bellissimo, molto molto bello. Anche le cromature sono rimaste originali, veramente bellissimo. Hai visto? L'ho pulito solo così, le lamelle dentro sono nuove. Va bene. Ehi, ehi, Angeli. No, ma nuovo. Sto ancora allucinando. Nuovo, non ha un graffio, veramente in ottimo stato, pulito solo la cordicella e basta. Aspetta un attimo che ho spruzzo un po' di spray nel connettore, ok? E poi ho finito. Ecco qua, ha togliuto le impurità anche dal connettore, capito? Che era fermo anni, quindi. Però viaggia, dai, già va bene. Un microfono così in queste condizioni ha un valore inestimabile. Non ne ho mai visto così nuovi. Io l'ho avuto ma non era così. Questo c'ha tutte le scritte originali, proprio originale. Bello, eh? Le sue viti originali addirittura, i piedini originali. Bello. È stato usato qualche volta, però non molto, capito? E quindi era custodito, però così, diciamo abbandonato, messo da parte, dai. Ma non all'umidità, non... era custodito, però tutto pulito, lucidato, veramente in ottime condizioni. Quella levettina nera, quello è il BTT Lock. Schiacci che la levetta si abbassa il BTT. La regolazione è dietro. Guarda che te ne sto mandando un'altra proprio per farti vedere il retro. Quella levettina è il lock del PTT e l'altra è la regolazione, qua. Apri bene la foto e lo vedi, c'è il lock, la levettina del lock e poi c'è la regolazione dietro. Guarda le scritte, guarda com'è dietro, guarda, nuovo. La TARN faceva microfoni seri, aspetta che hanno acceso l'aspirapolvere, qua mi devo chiudere, aspetta. Quale? Il 440 questo, sì, ce l'avevo anche Pinangelo, gliel'avevo venduto io. Ma io c'ho il baracchino di Pinangelo anche. E glielo vedo, che adorava. Questo dove è attaccato il Turner più 2 è il 440, quello che vedi a fianco è il 430. Io ce li ho tutte e tre. Volevo prendere anche il 680, ma non ne vale la pena, intanto non lo uso perché non serve a niente. Ce li ho già, i 6 metri ce li ho, quindi l'avrei potuto mettere in 6 metri, ma non mi interessa. 140 e 180 sono dei baracchini a sintonia continua, no? Ci vuole due conversioni, devi tenerlo acceso ore e ore prima di scaldare. 430 e 440 sono i migliori, poi c'ho anche 140, però adesso lo provo sul 140 questo Turner. va bene, va bene. Non ho capito, Angelico, cosa hai detto? No, negativo. Forse c'era qualcuno sotto di te, chi è che vuole entrare? Sto parlando con Angelo. Evidentemente non lo senti, chi è? No, chiunque tu sia non stai uscendo dalla radio. C'è qualcuno sotto, ma non riesco a capire chi è. Va bene, Gigi. Comunque ti è piaciuto, è bello, no? E questo adesso lo provo, lo faccio andare un pochino, vediamo se fa dei difetti. E ripeto, peccato che abbia il connettore del keyboard, perché chi ce l'aveva era un radioamatore, lo usava col keyboard, capito? Connettore keyboard. Se riesco a farmi l'adattatore da 8 a 4 lo posso usare con i baracchini, se no pazienza. Aspetta un attimo, Gigi, che c'è qualcuno sotto, chi è? Avanti! Non mi arriva a Sassari. Sì, che arriva a Sassari, ma cioè, se parla Angelino ti copre, Alghero mi arriva più forte. Tu sei 8 e Alghero 9 più 10, quindi. Ciao Vanni, cosa stavi dicendo? Ciao, ciao, cambiate di classe. Allora, non ti ho mai sentito così bene, quindi per me puoi anche lasciare quello, gli altri mettere dentro il cassetto. Aspetta che lo porto più su, così sto spingendo un bel come microfono, parlo, con l'impianto è questo. Così va bene, te l'ho già detto una volta, così va bene, spinge bene, la modulazione è chiara, non hai fischi, non hai niente, va bene. Guarda, ma ho cambiato radio in pratica, ecco perché adesso l'ho portato. Come stai usando anche tu il K? Ma questa è una tonalità di voce, e secondo te com'è questa? Meglio finita. Questa c'ha più bassi, ma l'altra secondo me mi piace di più. Aspetta, questa è un'altra posizione, no, le sto memorizzando, se no poi mi dimentico e capisco, non mi ricordo più, lei che faccio 1, 2, 3, questa è la certa modulazione, che così se va anche di premo ne lascio, so che una la prima è bassa, la seconda c'è il medio alto e questa com'è? Anche questa c'è i medio bassi, mi piace più la prima, Vanni, la numero 1. In pratica questa, no, così confermi. Confermo il puntello, sì, confermo il puntello, questa c'è i medio alti e medio bassi, ben consistenti e bella. La seconda non è male, la terza c'è troppi bassi, non c'è acuti, mentre invece questa e la seconda vanno bene, quindi puoi usare sia la prima che la seconda. Vabbè, dai, ne ho visto questa e l'altra che ho fatto prima, non l'ultima, la prima delle prime. Vabbè, ok, dai, chiudo tutto. Memorizza e me ne fissa. Vabbè, anche io non lo sento voi. K, io invece sto usando un Tanner più 2 da tavolo, se vuoi ti mando la foto. Tanner più 2 da tavolo, nuovo, con il K perché col 440 perché c'ha il connettore keyboard, quindi non posso usarlo sui baracchini. Però sembra che vada bene. Lasciamo stare, lo usiamo, lo facciamo andare, ho tutto pulito, dentro è perfetto, nuovo, è tutto in originale, ti mando la foto Vanni. Allora, vabbè, il pedale me la faccio in appena, no, non ho più l'abitudine, perché non ho il microfono è appeso, il pedale a terra, quindi posso essere libero di parlare, e adesso l'ho fatto per quello, perché poi intanto sto facendo qualcosa e no, e mi mando la vedere. Io ne ho uno di un amico, ma si sono staccati dei figli, non ce lo sembra, cioè. Io beh, se lo vuoi mettere a posto, questo è originale, originale come mamma l'ha fatto, c'ha tutte le scritte, è perfetto, guarda, ti faccio il retro, il fronte retro, è veramente nuovo, tutte e due, perché sono veramente bello, nuovo nuovo, è veramente nuovo nuovo, te li ho mandate, l'ho attaccato al 440, già si vede il connettore sul 440. Sì, questo invece è il tanto più fresca, questo è il fresco, se trovo lo schema fresco. Ah, a cosa lo devi chiedere lo schema, come si dice, a Fabrizio, che mi sembra se l'aveva scaricato, se l'ha scaricato lo schema perché ne sto riparando uno. Devi chiedere a lui lo schema se te lo manda, io non ce l'ho da Turner più 3, c'ho quello del Turner più 2, capito? Di quello che ti ho mandato, questa era di Gianfranco, me l'ha regalato Gianfranco perché non lo usa, l'ho solo pulito, ma è tutto originale, anche il cavetto, tutto in originale qua, bellissimo veramente. Sì, vabbè, portate in funzione, capito? Per le portate. Vabbè, ora. Sono contento per il microfono, a me non lo lascio di com'è. Da bloccarti tu. No, Vanni, già lo sai, io con le modulazioni sono molto preciso, a me non mi interessa il segnale, se uno arriva basso, però quando io vedo la radio bella, pulita e forte, a me va bene. Quindi ti consiglio di puntellare proprio così, quelle sono le tue regolazioni, della numero 1 e della numero 2. Potresti usare anche la 3, però c'ha troppi bassi, non c'ha acuti, mentre la 1 e la 2 sono fenomenali, lasciali così. Sì, vabbè, sei l'amplificatore del gruppo, quello va là, l'equalizzatore in uscita, quindi va bene così, adesso mi ho preso un po', ho fatto un po' di silenzio, e così è... Sì, va bene, lascia quella la radio che va bene, Vanni, ti ripeto, va benissimo. Diciamo che ha problemi a copiarsi con l'altro, non ha tanto problemi, che ogni tanto, capito. Adesso infatti non ha capito, non lo so che la basta, però poi non ricordo la numerazione di uno, come ho mangiato nell'altro, e quindi se va bene, è a posto. Che spinge molto di più e sono quasi al 10%, ma comunque va bene, che si conferma, ottimo per la truppa, va bene. Angelino, lo senti a Vannino, vero? Attenzione Vannino, canale 10. Lavato, sdocciato, pulito, cosa è da profumato? Andate, cambiato il pannolino, lo capposso. Il rabbi contadi, c'è un re, na, c'è un re. Chi c'è qua? Io. Ah, Eugenio, sì. Stavo sistemando ancora sto microfono, dai. Fai, non devo fare, fai tranquillo, cambio. Adesso ti mando la foto, questo microfono è anni 70. Ma mai è anche nuovo, perché, ma nuovo però. Vabbè, un amico lo truba. No, l'hanno regalato a me, un radioamatore, infatti c'è l'attacco del Kenwood, capito? Attaccato al Kenwood, per dirti che non c'è bisogno di MC60, no? Tutti i microfoni vanno bene, ma questo è veramente nuovo, eh? da tavolo che costava un patrimonio quando è uscito. È un valore inestimabile adesso, perché non si trova. Originale così non lo trovi. Questo è proprio originale, veramente. Tutto, non c'ha un graffio. Anche le scritte sono tutte originali. Anche Giampaolo, la voleva, ce l'ha fatta. Se ne ho dato io. Non ho dato a Giampaolo Silvestro. E poi Giampaolo Silvestro l'aveva venduto a Giampaolo RC2, che abitava la stessa via delle Vigne. Capito? Però era il mio, sempre il mio era quello. Ma non era originale perché l'avevo riverniciato. Questo è colore originale, originale, tutte le scritte, anche il cavetto, tutto originale. Aspetta, sto cercando un connettore, al contrario, da 4 a 8, invece ce l'ho io, da 8 a 4, ne ho due, tutte e due da 8 a 4, che bisogna farne uno da 4 a 8 per poter attaccare questo, per usare col baracchino. Dai, oggi rimango in Quirix che sto facendo cosa, ci sentiamo dopo. Ma vai da qui. L'hai vista la foto? Te lo ricordi questo microfono? E un attimo prendo il cellulare. Guardalo, aprilo bene, guarda quanto è nuovo. Sì, già lo ricordavo, come quello di Giampaolo, vai, bello. Sì, io l'ho lavorato io a Giampaolo, poi ti ripeto, lui l'ha lavorato a Giampaolo RC2, non so se te lo ricordi, abitava lì subito dopo Fragas, mi pare che abitasse lì in quella casa bassa. RC2 abitava un po' più avanti, dove c'erano gli uffici di Tintelli, te li ricordi? Allora, RC2 poi si è trasferito in via Galvani 2, anzi no, via Galvani, non via Galvani 2, via Galvani, una parallela via dei figli. E si conferma, io non l'avevo fatto, io quello lì, quello che usavo, poi ma Giampaolo lo usavo con la KB23, ma questo connettore gli ho tolto, ora faccio un adattatore, adesso vediamo, glielo tolgo e metto il connettore 4, perché questo deve lavorare col Polmar, sicuramente col Polmar esce una bomba. Dai, fai, poi ti fai sentire. Dai, adesso vediamo se ho un cavettino, le faccio un adattatore da 4 a 8. E siamo pazienti, dai, vediamo un po'. Dai, ci sentiamo dopo, Ceccia. La modulazione va bene, sì. Come? La modulazione, ho detto, va bene. Buona grande. Va bene, ok, dai, ci sentiamo dopo, ciao. Chi sta provando? Chi è avanti? Sì, mica! C'è uno, prova. Dico avanti, non viene avanti. Venga, devi culo. Ripeto dal furgone, ciao, a tra un po'. Ciao, OG, okay, sì, sentiamo dopo se faccio una cosa, dai. Sì, a dopo, ciao. Ciao Antonio, ci sono io, sto facendo cosa, dimmi. Io fammi sentire se va bene. Ecco qua, questo invece è l'MT4. Va bene, lascialo così che va bene. L'amplificato rimane con fronte all'altro, sì, io presento la modulazione. È il doppio, Antonio, è il doppio. Addirittura il doppio, anche a questa distanza va bene così, non devo regolare nient'altro, no? No, per me non deve regolare niente, va bene così. Sono riuscito a provare il collegamento, siamo piano per lo scandalo, non so faccio l'ultima piccola saldatura, comunque mi confermi che da una all'altra c'è la differenza, rimane più amplificato, più presente la radio, sì? Sì, va bene, alla grande Antonio. Ok, dai, chiudi, poi ci sentiamo e sono forniti. Dai, va bene, scusa, ma grazie, va bene. E a dopo, Gappa. Sì, avanti. E oggi tu sei? Vabbè. Ebbene. Ciao, buongiorno. Sto provando un amplificatore. Mi dici come va, per favore? Benissimo, pulita, chiara e pulita. Anche il segnale vuoi sapere? Sono in prima. Se va a distorcere e poi mi dice anche il segnale. No, la radio è perfetta, grandiosa, niente da dire, il segnale è quasi 9+20. Bene, guarda un pochino, c'è aumentato. No, il segnale è uguale. Vediamo se cambia anche la radio. Niente, è perfetto, ma cos'è questo? Aspetta un attimino, guarda in questa posizione, 1, 2, 3. Ma così ne guadagni di cosa? Un peluzzino hai guadagnato, sei quasi 9+20. Bene, la radio non cambia, vero? No, assolutamente no, tutto pulito, potente, chiaro e forte. Oh, perché era nuovo. Ecco, adesso ho dato un altro giro, guarda un pochino, 1, 2, 3. No, questa è la radio tua, sempre buona. Il segnale non ho visto differenze però. No, non ci sono differenze. Guarda un attimino, sta aumentando ancora. Come sta aumentando? Adesso si è diminuito. Prova a parlare. Guarda un po', 1, 2, 3, prova. Sei quasi 9,20 spaccato. Aspetta, e invece quello di diminuisce, guarda. Allora, 1, 2, 3. Sì, qualche cosa, quasi 5 punti diminuisce. E così invece, 1, 2, 3, prova. Un pochettino, allora guardi con i picchi arrivi a 9,20 e d'altro quasi 9,20. No, ti spiego, vabbè, perché ha il settore dell'aumento rotto, quindi non riesco a capire come quanto sta andando. Guarda, aumenta ancora, guarda un pochino. No, adesso è uguale, non ho notato differenza. Allora, ricapitolando, questo è uno, questo è il primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, dovrebbe essere così, giusto? Nel sesto ti sei abbassato, gli altri hanno aumentato gradatamente, il sesto al numero 6 ho visto ti sei ritornato e riabbassato. Ho registrato, quindi così mi confermi, sono andato indietro, mi confermi che va bene? Sì, sei 9,20, prova a portante muta senza parlare. 9,20 se a portante muta. Va bene, tieni presente che sta andando con meno 10 watt, guarda un pochino, c'era anche Claudio poc'anzi, non ho fatto in tempo a chiamarlo. No, la radio è buona, non cambia neanche, l'altro giorno invece avevi grossi problemi, mi pare te l'ho detto. Ok, c'è stato un break, perché era Eugenio? Buongiorno, vabbè fatta te la radio, Tino. Ieri stavamo facendo le prove. Lo so, Claudio. No, sto provando altra cosa. Sì, problemi che mi hai detto tu, diciamo, dovevo guardare un pochino, non so, non ho capito, forse andare fuori frequenza. Dammi un controllo tu, che sai, il mio segnale, se ha cambiato qualcosa o meno. Mi sembra troppo alta la modulazione. Sì, abbiamo fatto delle prove ieri, no, non è fuori frequenza, è perfetta in sonda. È un problema di saturazione, capito, di casino, boh, non so, vabbè, lo vedrà lui. Appena devi abbassare Tino. Ciao a tutti, buongiorno, però vi lascio perché sono i fornelli. Vieni avanti Tino. Che radio stai usando? Che radio sto usando? No, che microfono sto usando? Vabbè, fai degli scarichi, delle scariche appena. Delle scariche appena, è tutto pulito, non c'è più due da tavolo. Scariche in che senso? Cioè quando schiaccio la portante? Leggera. Non mi conferma Cla, scusami se. Questo è il suo segnale che siccome è attaccato. Com'è? Lo stesso segnale che arrivi, puntella però, segna Dio. Lo stesso segnale che arrivi col 450 normale, uguale, non cambia niente, sempre 9,20 arrivi. Beh, lo provo in un'altra radio. Ehi, questo è un thunder più 2 sul K, sul 440, lo sto provando, l'ho ritirato stamattina, nuovo, Roberto, ti mando la foto, è impeccabile, vale un pacco di soldi, c'ha tutte le scritte originali, proprio non ha un graffio, le cromature, il cavo su originale, con la molla di sostenimento all'attacco microfonico, veramente nuovo. Claudio, la radio però non mi piace, è troppo barattolosa. Manda senza parlare, manda solo portante, sento tipo vivi un fischiettino so. Anche io, Oh, io sono bloccato qua, non lo so, se sentite qualche vento, ascolto, barattolosa, non è che è un microfono che va bene a queste radio. Ce l'ho a uno ce l'ho me. No, forse c'è qualche radio accesa comunque qua. È tutto spento qua, c'è solo l'alimentazione, se si sente l'alimentazione con questo, non si sente col keyboard, allora l'amplificazione già ce n'è. Sì, c'è l'amplificazione, però sembra dentro una caverna che stai parlando, molto rimbombante la voce, chiara ma rimbombante. È un po' cupa anche secondo me. Guarda adesso Claudio, guarda il segnale ora, dovrebbe essere uguale. Sempre 9,20, non si sposta da 9,20 Tino. Bene, vabbè, l'amplificazione però va meglio, non è troppo forte. No, l'amplificazione va bene, ok. Va bene, dai, io vi lascio che devo dar cosa non passare. Sono cucina non passare, Bobita, prima se vuoi dire devo lavare la cucina, va bene. Ok, dai, sì, vabbè, è così, tranne più due è così con questa radio, non posso neanche aumentare perché se aumento, guarda, appena ce l'ho a 1,5, guarda quanto è più forte. No, ma la radio è fortissima, Clan, non è questione di essere debole, la radio è forte quanto l'altra, niente da dire, però la sento troppo rimbombante, magari su qualche altro tipo di apparato potrebbe andare meglio, su questo qua, sembri con l'ICOM, cioè presente l'ICOM quando vanno in AM, quelli di vecchia generazione, hanno un rumore un po' cupo e molto, molto rimbombante e barattoloso la voce, dai. Sembra che sia dentro un bidone o qualcosa. Vabbè, poi apro a vedere come la capsula, perché è tutto originale, questo non è stato toccato. Vabbè, dai, è un microfono degli anni 70, noi possiamo farti andare molto. Attenzione, non se ne può avere con questi microfoni, l'importante è che funzioni. Io l'ho preso perché volevo vedere se funzionava, c'è il connettore del cable, adesso glielo staccherò, lo farò il connettore a 4 e lo metterò su un baracchino, ti mando la foto a te a Tino, vai, nuovo. Io vi devo lasciare però, ci sentiamo dopo, ciao a tutti, a dopo. Ma sei andato anche con la radio, con l'apparecchio radio, autoradio, Cla? No, si è dimenticato purtroppo, però ci dobbiamo andare in settimana perché devo ritirare altra roba. Ok, va bene. Aspettate, c'è Eugenio che voleva rientrare, che eravamo un po' monopolizzati. Avanti Eugenio. Sì, ti chiamo io Roberto, collegando delle fai, dai, fai prendere Eugenio. Che è? Oggi è tu sei? Collegando, via. Non la possiamo, dai. Ah, mi sembrava Eugenio, infatti il segnale non era suo, hai sentito Vanino? Nel camera è quella lì, non è maratonosa, se l'ascolti per una radio un pochettino più, non è male. Buongiorno anche agli altri. Vabbè, già la sto ascoltando, non la sto ascoltando con un baracchino, la sto ascoltando anche con l'altoparlante esterno, di qualità, non la sto ascoltando qualcosa, però rimane rispetto alle altre radio abituate a sentire quelle di Claudio, è chiara, però rimane un pochettino, un po' troppo barattoloso. Vabbè. No, è simile, quelle, i standard sono così. Vabbè, sì, parli con me. Ok, niente, faccio un collegamento, devo rimanere ancora X però, sennò è un casino. Un collegamento, e questo ti piace la lavorazione? C'è rumori sottofondo, rumori, non so cosa, qualche innesco piccolino, ogni tanto spegni qualche vento. Ragione, adesso non c'è niente. C'è una lampada che era una anche Leon e Ned stanno sicuramente lì. Andare, va bene, là. Vediamo se la c'è l'altra parte. Scusate, devo lontanare. Ok, aspetta, anche io. Due minutini devo fare cosa? Ci sentiamo tra poco, ma. Via, basta. Attento Eugenio, se mi tocchi, prego. Eugenio, mi tocchi. Hola. Prova radio. Avanti, buongiorno. Sono rientrato, chi è rimasto? Buongiorno, ciao, come ben sentito. Oh, ieri ti abbiamo rilanciato qualche cosa, poi sei scomparso, mi hai detto vado a provare un baracchino e poi non ti abbiamo più sentito. No, stavo cercando di trovare la connessione, perché ho fatto una lunga per avvicinare, quindi di più quattro al momento. Sto utilizzando adesso, cosa mi dici? Perfetta, bellissima, forte e chiara, molto pulita come tonalità. Allora, questo è il 24, perché poi è un maestro originale dell'apparato, è un 24. se non alzi troppo il tono della voce va benissimo, perché stavi leggermente innescando. C'hai, hai messo anche il vetronetto, ha aumentato gli acuti o com'è, che posizione è? No, non ho messo niente, non ho messo qua, non ho messo la modulazione, non ho messo la modulazione, non ho messo la ah, più 4, scusa, l'ho convinto fosse più 5, come non detto, ho detto una fesseria, dai, no, quello non può regolare niente, solo l'amplificazione, no, no, va benissimo, guarda, molto chiara e pulita, non ti posso dare nessun coso negativo, aspetto negativo. Molto chiara e pulita, no, solo rimane più amplificata, giusto? C'è l'amplificazione alla fine. Ma è innescato, aspetta, ti dico come sei messo esattamente, così ti do dei valori esatti. Prova a parlare. No, ma non parlare, manda solo portante. Diciamo un attimino è innescato, vabbè, da portante butta niente, prova a parlare adesso. No, bisogna fare le due prove, siccome l'MB più 4 c'ha un grande difetto, quando aumenti l'amplificazione inizia a distorcere e ti cambia anche nelle tonalità, per cui è bene fare un compromesso utilizzando le due regolazioni, sia il Mickey Gain dell'apparato con il Mickey Gain del coso, del microfono, arrivi sino al limite che non inizia a innescare e provi a alzare dal coso, dall'apparato. No, viceversa, perché se tu porti distorsione a un apparato, quello te lo amplifica ancora di più e ti dà, se c'hai un percento di distorsione, gli aumenti il guadagno dell'altro apparato, da uno può arrivare anche molto di più, per cui è meglio tenerti basso di microfono e sollevare piano piano e trovare il giusto compromesso, fare delle prove e sollevare l'apparato. Ok, prova adesso ad alzare piano piano il microfono. Allora, tu l'apparato prima, quando sei entrato, a quanto era regolato il guadagno del microfono? Non del microfono, dell'apparato, al massimo a metà, a tre quarti. Adesso meglio fare a me. No, prova a parlare. Un attimo. Allora prova, scusa un attimo. Allora prova a diminuire un po' l'apparato e alzare un po' il Mickey Gain del microfono. Ecco, prego. Registrato. E aumentato. Prova a parlare adesso. Guarda, adesso sta andando bene, prova a parlare, mi sembra anche perfetto anche come livello, prova a parlare. Allora, adesso sta iniziando a lampeggiare il rosso, abbassa peruzzino l'apparato, ma proprio una cosa impercettibile, e se tieni questa tonalità di intensità di voce va benissimo. Adesso sei perfetto, ok. Adesso scusa un attimino che Claudio ha chiesto un controllo e poi facciamo entrare il break. Avanti Claudio. Sì, adesso che ho fatto una piccola modifica. No, vabbè, intanto mi devo lasciare perché sono i fiorelli. Dimmi se me ne occupo adesso. Sai questo fischio sotto, non capisco come mai, Claudio. Ma sono in cuffia, non sento nessun fischio. Sarà la ventola dell'alimentatore, cosa mi dica? Non sento niente, è perfetto. Non parlare, ma o c'è qualche vento, la televisione è accesa, cosa c'è vicino? La televisione c'è, ma è nel salone, cosa c'entra? Io non ne ho dei rumori, non c'ho niente io qua. Io sento sotto di te la televisione, ma molto forte. Allora, cazzo, dimmi che la televisione, aspetta che chiudo la porta. Mi sentivo, sembrava un fischio, invece poi, come è mollato era la televisione. No, vabbè, allora adesso televisione non c'è. Ecco qua. Dimmi se meno cupa o che cosa, se va bene. Diciamo, sembrerebbe leggermente meglio di prima, però è una tonalità, cioè c'è molti acuti adesso, cioè non mica acuti, molti di frequenze medie, però è rimbombata, sembra troppo amplificata, che ti porti dietro un sacco, sento il tuo respiro, cioè è molto, molto poccoso, amplificata come era. Vabbè, cioè, che rumore, che... Amplificata o non amplificata, vabbè, cioè me ne dire, se la modulazione è chiara, lascia perdere il rimbombo, c'è la porta chiusa, lascia perdere, mi devi dire se, se va bene come timbrica di modulazione, se è accettabile, è un microfono degli anni 70, non ha una capsuletta del cazzo, ha una capsula grande quanto tutto il microfono, ti mando la foto, adesso l'ho abbassata leggermente la preamplificazione, ma se lo chiudo, ti mando la foto, è a uno, come cazzo faccio a chiuderlo? No, ci credo, lo conosco pure quel microfono, però se, come si chiama, non è una modulazione naturale, sembra equalizzata, che hai pompato l'equalizzazione, sta amplificando è anche troppo il microfono, però non è una voce naturale, è comprensibile ma non è naturale. Oh, vabbè, non ti capisco, dai, tu sei troppo perfetto con queste regolazioni. A me interessa sapere se, lascia perdere la timbrica dell'MC60 che sei abituato, questo è un altro tipo di microfono, ok? Quindi a me interessa sapere se è accettabile o meno, lascia perdere tutto il resto, i rimbombi, l'amplificazione, è amplificato, chiaro che è amplificato, ma non posso abbassarlo. Lo abbasso ancora un pelino, ecco, se vado a abbassare ancora lo chiudo. Allora, dai, scusa la prova, voglio vedere l'abbassato, prova a abbassarlo, Claudio, per curiosità. Scusa. Ci sono le nacchere che stanno vibrando. Claudio, troppo, qua ti ho mandato un video, cioè un audio, ascoltatelo. È troppo rimbombante, ok, però basta dire che è troppo alta. La chiudiamo un attimino, ecco qua, la sto chiudendo, ciao Giulio, buongiorno, ecco qua, la sto chiudendo, ecco, adesso è chiusa, ce l'ho a uno, è meno rimbombante di prima? Sì, è meno rimbombante, però è sempre, non è una, è una voce, come si mancano tutte le frequenze basse, cioè solo medi e acuti e bu. Medi e acuti, mentre invece facendo così, aumentando appena appena il microfono, sento i rumori di fondo, le ventole e tutto, però non cambia la modulazione. Vabbè, ok, dai. Ok, ciao Giulio, buongiorno. Ciao Claudio, ciao Roberto e ciao anche a Tino. No, è come se tu avessi all'interno del microfono qualcosa che vibra, praticamente le nacchere che stanno muovendosi, in poche parole, una musica tipo nacchere, non lo so, sarà la capsula che vibra, insomma qualcosa del genere, però la modulazione è bella, chiara, come sempre, insomma, ma c'è questo disturbo che poi non è un disturbo perché tu non riesci a superarlo modulando, però c'è questo sconcasso, sconquasso sotto. Bravi, hai medio alto un bel. Ok, e medio alto, il tane più 2 è così, è come il tane più 3, infatti il 2 e il 3 non... ci vogliono dei baracchini un po' particolari, questo c'è il connettore Kenwood, capito? Quindi non posso metterlo su dei baracchini per il momento, poi vediamo, dai. Vabbè, l'importante è che la modulazione sia chiara, poi tutto il resto vediamo, dopo apro perché la capsula è talmente grande che non riesco manco a staccarla, ma vediamo se riesco a staccarla, a vedere cos'è che sta vibrando, dai. Ok, ci sentiamo dopo, grazie a tutti. Dai, lascia stare, non sta vibrando la capsula, ma lo sapete, vibri la capsula, è la timbrica della modulazione del tunnel più 3, è uguale, non ce n'è, è così quella lì, non toccarla, che non la vibra, non può vibrare la capsula, è possibile, è la timbrica della modulazione che ha, punto, non puoi migliorarla quella lì, quella è la classica modulazione del tunnel, punto. Ma infatti lascio stare così e non tocco niente, dai. Perché che tutti sono abituati a sentirmi in una certa maniera, questo è un altro tipo di microfono e va così, dai. Va bene, continuate, ci sentiamo dopo, ciao a tutti. Claudio, quello dalla me che va bene a me. Vannino, un attimino, QTC20, scusate, ciao a tutti. Vannino, sì, paese, Italia, Vannino, scusa un attimino, QTC su canale 20 per delle prove. Dimmi la frequenza, io vado a intuito, però. 205. Ok, scusate, sbagliato, buongiorno a tutti, buona domenica. Chi c'era poi? Giulio, ciao, ben sentito, c'era qualche donato che ha fatto break in prima avanti? Ciao Roberto, no, era Tiro. Sì, ma non è come diceva Dino, c'è un suono di cucchiai che si stanno sbattendo sotto, no? Lascia perdere, che non è come sta dicendo lui. Per me c'è un disturbo ed è anche abbastanza udibile. Assolutamente sta dicendo fastidio, che cavolo sta dicendo, il suono del cane, non va bene su quella parata e basta, il suono del cane, e che lo faccio sentire il cane a vedere come funziona, ma che cavolo stiamo a dire. Ok, non va bene su quella parata, bisogna avere anche le impedenze e tutto, non è che uno piazza un microfono così e lo mette senza nessun criterio, lasciamo perdere, dai, non facciamo polemiche. E il tane è un gran microfono per altri tipi di cose, su quella radioliera un suono rimbombante, ricco di tonalità medie e acuti, mancavano totalmente le tonalità medio-basse e basse, e poi era tutto questo rimbombare tipo bicchieri di cristallo che si sentono sbattere. Cosa c'entra la caratteristica del tane con... è un altro tipo di microfono che non va bene qua. Infatti c'è il disturbo, c'è, come è anche abbastanza udibile, cosa no. Poi il discorso della modulazione lo sappiamo, è bella, è forte eccetera, però il disturbo c'è, questi cucchiai, questi bicchieri che si sbattono uno con l'altro, cosa no. Sai, tu dici che la caratteristica del tanne balle sono, perché il tanne di questi difetti non le fa, perlomeno su certe radio io non le ho mai sentite. Adesso lo sta facendo, probabilmente come stai dicendo tu, che non si è adatta bene a quella radio che sta usando, o probabilmente ha qualche problema al microfono, tutto lì. L'impedenza è fondamentale negli abbinamenti, cioè deve avere quel giusto valore di impedenza. Qua sta tagliando tutte le frequenze e in più gli saranno un leggero effetto riverbero che non c'entra niente, diciamo. La radio è chiara, la capisci, però non è di qualità, è una radio troppo amplificata che sta portando appresso tutti i difetti. Sembra che lui sta parlando dentro un bidone in latta con questo rimbombo e poi questo tin tin tin tin tin, tin che si sente questa roba. Il microfono è eccellente, è un grande microfono, niente da dire, però probabilmente non è adattato bene su questa radio. Ok, Antonio, riprendi. Buongiorno Giulio. Poi questo fatto stai ascoltando con radio, ma che cacchio che radio c'hai tu? Vabbè. Ti seppellisco di radio. Va bene, quindi adesso sono regolato con il metodo, non dovrebbe andare benissimo, ma non sta presente la radio, sì. Assolutamente perfetto, questa è una bella modulazione. Quando parliamo di belle modulazioni lo dico, quando la modulazione ha dei difetti, ma non deve essere una guerra, cacchio, questo che mi dà fastidio. Cioè io se dico, se mi chiedono controllo, io dico quello che sento e quello che vedo, poi se la gente non piace trova scusa, un altro discorso. Mi spiace polemizzare a me, perché io sono il primo che evito le polemiche, però basta con questi discorsi, devo dirti che sta uscendo bene una cosa che sta andando male. Non posso dirlo io. A chi riferiti? A me, Roberto, cioè, ma a me o a Giulio? Sei a te, come segnale? Sei quasi 9 più 10, 9 più 5 con i picchi arriva a 9 più 10. Chiediamo a Giulio che è molto più lontano, giù come l'ascolti? L'ascolto molto basso e il QRM è allo stesso livello della sua modulazione, dunque mi impedisce di capire tante parole. No, non è pulitissima la radio, io non la sento pulita perché c'è il QRM che la sporca, Antonè. Purtroppo sì, in quella posizione va bene così, cosa vuoi che ti dica? Io ti sento basso, di segnale Santiago 5 e anche di radio basso, che tra l'altro, ripeto, il QRM ti copre quasi completamente la modulazione. Giulio, ma il microfono di ieri sto utilizzando? Sì, sempre lo stesso microfono, ma beh, ti ho detto questo che è migliore e teniamo questo, che problemi ci sono? Poi non è che ci prendo gusto a stare sempre cambiando il microfono, cosa vuoi che a me mi interessi? Va bene così, se mi ascoltate bene basta, io dico questo, Robè. Assolutamente, anzi è un complimento che ti sto facendo, non prenderla come una critica, è perfetta, la radio tua, la tua voce è naturale, io quando ti ascolto dal vivo sei tu così, all'Antonello io non lo conosco, non so come parli, però la tua voce, Giulio, è questa, cioè ne è invecchiata e ne è ringiovanita, perché l'altra volta c'avevi una voce strana, una modulazione, oggi, da ieri ti posso confermare che è eccellente, bella e chiara. Ok, vabbè, evidentemente questo microfono si adatta di più alla mia voce, vuol dire utilizzeremo questo, però l'altro non è che lo metto da parte come definitivamente, ogni tanto anche con l'altro lo tiro fuori e lo utilizzo. Sai qual è il problema? Con 60, siccome la radio è stata attirata la LC, io so che questa radio prima di averla io è stata attirata la LC, e basta che tu sposti anche di uno spessore di una cartina di sigaretta Mike Gain, ecco che a un certo momento può entrare in saturazione. Poi naturalmente la correggo, purtroppo è così, non so cosa dirti, però questo, siccome il microfono è tutto un altro stampo, e allora evidentemente si adatta meglio alla mia voce o robe. No, assolutamente, anche 60 va bene, però questo è più naturale, il 60 lo vedo più da combattimento, nel senso per farti sentire in profondità, in lontananza, però questa è la tua voce, cioè io ho sempre detto, quando uno ha trovato il giusto compromesso, la radio diciamo è buona, e l'apparecchio parliamo, questo è un microfono che ti permette di irradiare e far sentire la tua tonalità di corde vocali, quella naturale, cosa vuoi di più? È inutile poi bombardare, di fare, poi se devi fare collegamenti, ti vuoi far sentire lontano, a quel punto ci sono i modi e i sistemi per farlo, ma con queste qua locali va più che bene, una radio pulita e perfetta, non posso dirti niente, come Antonello Paracuda, idem, ma ce ne sono tante di radio belle, pulite, che non hanno nessun difetto. Beh certo, quello è vero, cosa vuoi che ti dica? Non sai come succede, no? Chi la vuole cotta e chi la vuole cruda, da questo punto non si capisce come ci si deve comportare, anche perché la gente dà le valutazioni senza tenere in considerazione della radio che lui sta usando per ascoltarti, c'è anche quello da tenere in considerazione, Robè, perché da una radio all'altra c'è sicuramente differenza di ascolto, ne sono più che convinto, questo penso anche. Ah, quello è assolutamente la cosa, è fondamentale anche, oltre che ricevitore, diciamo, perché anche il ricevitore un po' ti sporca, però se c'è un ricevitore di qualità e c'è degli altoparlanti, diciamo, un diffusore acustico di qualità, rispetto a un altoparlantino di 3 cm dentro un ala 48, che cacchio di rapporti puoi dare di radio? Io, grazie a Dio, posso permettermi di ascoltare con un diffusore più di uno di qualità e con delle strumentazioni di altrettanta qualità, per cui quando ti do il rapporto, se vi piace è quello giusto, io balle non ne racconto, è questo che un po' mi dispiace, qualcuno si può anche offendere, mi prende per presuntuoso, però se tu ti permetti di chiedermi un rapporto di radio, io te lo do con voce di causa, non mi metto a dire per farti bello, sì tutto a posto, va bene, oppure vai, c'è una radio che non vale niente, è quello lì che ha parlato prima, sinceramente non mi è piaciuto. Beh certo, scusa Antonio, ti rilascio subito, il discorso è questo, io raramente chiedo controlli eccetera, Robè, sai cosa faccio? Io vado dritto per la mia strada, chi mi vuole ascoltare mi ascolta, così chi non mi vuole ascoltare spenga la radio, non se ne parla più, cosa vuoi che ti dica? Poi del resto non tutti possiamo avere la modulazione diciamo così da campione del mondo, assolutamente no, perché ci sono vari motivi, la timbrica, la radio, il microfono, la lontananza, la potenza di emissione, tutto, c'è una serie di conseguenze che poi a valutare effettivamente qual è la radio migliore, non esiste, perché per uno può essere più bella, per uno può essere meno bella, per cui è sempre una questione di gusti, e cioè di mentalità, soprattutto di ricezione, non può essere diversamente. Va bene, avanti Antonello. Sono rientrato, sono qua. Ok, Claudio. Vai Antonello. Allora, io dico, voglio aggiungere una cosa. Allora, le sperimentazioni, la radio è fatta per sperimentare, per provare, eccetera, eccetera, perché i radioamatori hanno iniziato così, da alcuni in giù, tutti facendo sperimentazioni, eccetera, eccetera, cercando di trovare il giusto compromesso. Poi, se uno trova il giusto abbinamento, dice, questo micro va per... Poi ci sono anche le prove, dice, però non puoi dire che una cosa va bene solo per dire, sì, sì, che va bene, ma fatti contento. Io sono fatto così, mi farò tanti nemici, sarò antipatico, eccetera, eccetera, ma non solo in questo caso, anche in altri campi, molte volte si parla di altre cose, ma tu qua là, purtroppo se tu vuoi il mio parere io te lo sono libero di dartelo, se poi non lo accetti o che non ti piace fatelo dare a chi te lo dà, bello, ma non posso dire io una cosa che non è quella che sento. E poi quando sento discriminare le cose delle altre persone, quello mi gira un pochettino le palline, dai, come ha fatto quello che c'era prima. Chi era? Vabbè, già te lo dico a quattrucchi, dai, non mi piace polemizzare, però non puoi denigrare le persone, le cose delle persone. Ma ha denigrato il mio microfono? No, riferito a me in generale, ha detto le cose che non mi sono piaciute. Guarda, raramente a me mi vedi polemizzando, lo sai, Cla, già mi conosci bene, però non ti puoi permettere di dire che sei con un cipitotto, con un baracchino. Vabbè, tante cose si stanno dicendo in questo periodo, comunque va bene, io adesso sto cercando di controllare capsula originale da 69K, Giulio. Interno più 2 c'è una capsula da 69K, la Madonna. Probabilmente è una questione di impedenza, Ocla, perché è inutile che dicano di no. La radio, ripeto, è perfetta, però c'è questa campanella sotto che è udibilissima, io la sento perfettamente, per cui è inutile che ti dicano di no, perché non è vero, perché hanno detto solo cretinate e basta. Io la sento e te lo dico, ripeto, la radio è forte, bella, la tua timbrica chiara, quello che vuoi, però c'è una campanella sotto, non è un'alternata, non è un rumore di fondo, non è niente, è solo uno scrocchiare di bicchieri che si stanno colpendo mentre uno si sta muovendo, tutto lì, il padre della campanella di Goso, di Rima Montones. Claudio, se vuoi fare un passaggio, il telefonino e il registro, che abbiamo forse abbastanza fedele, lo ascolti, no? No, me l'ha già mandata a Tino, per me va bene, questa è la timbrica del coso. Non bisogna gridare su questo microfono, perché è così. Comunque è quello, non c'è niente da fare. Interne più 3, Giulio, tu lo conosci, interne più 2 è uguale, non cambia assolutamente niente. Questo è, questo deve essere, dai.